Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Speciale Le imprese del lusso italiano di Alessandra Scaglioni. Questa puntata speciale di Voci di impresa raccoglie molte voci, quelle di imprenditori piccoli e grandi che operano nel settore del lusso, che si sono ritrovati lo scorso 28 giugno a Milano al Luxury Summit organizzato dal Sole 24 Ore. Quelle che vi facciamo ascoltare oggi sono le testimonianze e le esperienze di imprenditori del settore, a partire da Diego Della Valle, presidente e amministratore delegato del gruppo TOZ, che traccia un quadro di quali possono essere gli scenari per le imprese italiane in termini di assetto proprietario e di mercati. Ci sono aziende che hanno l'energia e l'intenzione di non farsi comprare da nessuno. Ce n'è qualche altra che per questioni generazionali o perché ritengono che è arrivato il momento, che è pronto a farsi comprare, e ce ne sono tante piccole che, pur essendo eccellenti, proprio perché sono piccole nessuno vorrà comprare. Queste sono un po' le tre cose semplici. Io credo che quello che conti siano un po' i perimetri. I perimetri significa che un'azienda, un prodotto devono comunque avere un segno più davanti, perché è il più grande, perché è quello che ha più idee, perché è quello che ha la qualità migliore, perché è più ricercato, il più esclusivo. Qualcosa ci deve essere, no? Il più economico. E quindi quando non c'è il segno più, intanto direi che la preoccupazione si deve accendere su chiunque, al di là delle dimensioni. E poi bisogna prendere atto che c'è una parte di mondo, quella asiatica, che ha un modo di sviluppare il commercio diverso dal nostro. Noi siamo nati come fabbricanti che vendevano ad altri, che a un certo punto hanno deciso di farsi le reti di vendita, con un passaggio, diciamo così, di mentalità non facile nel cercare di capire, perché l'idea era sempre quella di privilegiare la produzione ascoltando meno la distribuzione, perché venivamo da quel mondo, errore che molti di noi hanno fatto e non faranno più. E aprivamo negozi dove capitava, presentandoci, pagando le buone uscite, aprendo i negozi. Ecco, questo già è un discorso che in Asia praticamente non esiste più. Quindi quello che è importante in Asia, oltre che la dimensione, è l'aggregazione di gruppi che si presentano e quindi, con la forza di alcuni marchi, aprono la strada anche ai loro marchi più deboli. Qualche considerazione su come anche i più piccoli possono andare sui mercati internazionali viene da Renzo Rosso, presidente di Only the Brave Diesel. Quando sei piccolo, per quello che il mercato rappresenta oggi, se fai un'alleanza hai molte più possibilità di essere visto, di crescere. Cioè, prova a pensare cosa vuol dire sinergie, know-how, per esempio know-how produttive, cioè dopo know-how commerciale, il potere d'acquisto quando tu vai dai grandi department store, dai grandi buyer, dai grandi catene, e ti presenti come gruppo e quindi puoi chiedere certi spazi. Quando ci vai da solo e sei piccolo, forse non ti ricevono neanche. Quindi secondo me è vitale se uno vuole crescere, perché dopo uno dice: io voglio crescere, sono figo, sono bello, faccio le mie cose, mi diverto, va bene anche così. Cioè, però sai, un'azienda piccola è un'azienda che alla fine quanto profitto può produrre? 1 milione, 2 milioni, 5 milioni, cioè non riesci neanche a prendere un negozio in una città importante. Devi pensare che il 60% del mondo del lusso dei prossimi 10 anni sarà dato dall'acquisto dei cinesi, per cui tu non puoi non avere una politica aggressiva di visibilità al tuo brand, e i consumatori vogliono, perché oggi con il web statistiche dicono che il 70% di chi compra il lusso normalmente è abituato a comprare online. Le imprese del settore del lusso hanno fatto scelte diverse anche dal punto di vista dell'assetto proprietario. Marco Bizzarri, presidente e amministratore delegato di Bottega Veneta. Il caso di Bottega Veneta, quando si parla di prede e predatori, in effetti è abbastanza sintomatico. Nel senso che nel 2001, quando l'allora Gucci Group comprò Bottega Veneta aveva un fatturato di 35 milioni di euro di fatturato e ne perdeva altrettanti, quindi era un caso abbastanza caratteristico dell'azienda italiana. Il posizionamento che venne dato ai tempi dall'allora direttore creativo e presente direttore creativo Thomas Maier fu quello di posizionare Bottega Veneta nel lusso più assoluto. Il consumatore però non lo riconosceva, nel senso che ancora allora il consumatore confondeva Bottega Veneta con Bottega Verde, che non è esattamente lo stesso tipo di posizionamento. Se il gruppo non fosse stato Gucci, e non fosse stato finanziariamente solido a sufficienza per supportare e mantenere questa coerenza di posizionamento che al tempo venne data, oggi non si potrebbe parlare di Bottega Veneta come la vediamo oggi. Oggi Bottega Veneta è arrivata a oltre 500 milioni di euro di fatturato, ci posizioniamo senza dubbio tra i primi marchi italiani come struttura societaria. E quindi questo cosa ha voluto dire? Che la compagine azionaria è sì importante, ma quello che è più importante è capire quanto la compagine azionaria lascia o meno autonomia ai brand. Essere parte di un gruppo non vuol dire assolutamente nulla se poi il gruppo stesso non lascia autonomia in quelle che sono poi le leve di contatto con il consumatore, il prodotto, la comunicazione, tutto quanto riguarda la parte retail. Le soglie critiche hanno un senso solo ed esclusivamente se lavorano sui meccanismi di supporto, sull'information technology, sulla ricerca del personale, su tutto quello che è trasversale ma che non tocca il consumatore finale, altrimenti si va a banalizzare, si va a perdere quello che è il vantaggio competitivo tipico del nostro settore. È vicina la scelta della borsa per un nome rappresentativo del lusso made in Italy come Brunello Cucinelli, che ne parla con Paola Bottelli. Come tempistica abbiamo scelto primavera unicamente perché per noi i mesi importanti di collezione sono gennaio, febbraio, marzo, come sono giugno, luglio, agosto. Quindi anche per me è il periodo un pochino più tranquillo. Mi piace sempre fare un po' le cose anche con un po' di tranquillità. Veniamo dalla cultura benedettina, no? Quando a un certo punto San Benedetto dice cerca di essere rigoroso e dolce, esigente maestro e amabile padre, no? Quindi cerchiamo di mettere questa filosofia in impresa. Quindi Milano e primavera. La famiglia manterrà però il controllo, che ci sarà oltre lei? Beh, diciamo che ci sono io, ecco, per adesso. No, avevamo detto l'altro giorno che c'erano le due figlie, dove sono finite? Vabbè, le allora. Figlie è chiaro che sono... Ma no, io ho due figlie, una di 20 e una di 28, ho sempre immaginato che l'impresa non si eredita quello che si ha, ma non la capacità di fare impresa, quindi ho immaginato che andando in borsa in qualche maniera potessero arrivare dei nuovi manager i quali un giorno potrebbero lavorare e vivere con le figlie. Mi sono detto come potrebbe vivere questa impresa per 20 o 30 o 40 anni. I dati umbrici danno che il 91% di aziende muoiono con il suo fondatore, questo non, chiaramente non è molto positivo. Pensavo che andando in borsa potessimo essere aperti e quindi attirare anche nuovi manager che possano venire a lavorare in questo piccolo paese del 1300 a Solomeo, essere fortemente più solidi sotto il profilo patrimoniale, quindi affrontare il mondo con un pochino più di rapidità e di tranquillità. È quotata dal 2007 un'altra azienda familiare, Damiani, che opera nel settore dei gioielli. Fa un bilancio il presidente e amministratore delegato, Guido Damiani. Noi ad oggi continuiamo a essere soddisfatti della scelta fatta, anche se non siamo soddisfatti per quanto riguardano i risultati, ma è il momento. È chiaro anche che si porta dietro tutta una serie di controindicazioni, perché ci sono anche tante attività che onestamente rischiano magari di portare via al business in se stesso, specie se qualcheduno vuole fare un business dove la cura dei particolari resta indispensabile, importantissima, e dove io penso non ci possono essere compromessi rispetto alla coerenza col brand. Quindi bisogna sicuramente stare molto attenti, perché è facile farsi un po' fagocitare da quello che è il mondo finanziario, che ha delle dinamiche veramente molto distanti da quelle che sono il mondo dell'impresa, no? Dell'impresa stessa. Il tema della vendita delle aziende a grandi gruppi si intreccia con il tema del passaggio generazionale, da sempre delicato per le imprese familiari italiane. Ancora Damiani. Siamo 40 anni, siamo sulla quarantina tutti, quindi insomma in Italia 40 anni sei ancora un giovane imprenditore. Perché io sono giovane imprenditore, ho ereditato l'azienda a 28 anni, sono sempre giovane imprenditore. Vanno avanti gli anni, resto giovane imprenditore e faccio l'imprenditore. Quindi noi non accetteremmo, anche se capisco che, cioè, ogni persona si deve trovare nella propria posizione. L'unica cosa che mi sento di dire è che non condivido il fatto che per forza bisogna vendere le aziende, ecco, quando si vuole continuare a crescere. Intanto perché magari si può crescere anche a tassi diversi da quelli nei quali si può crescere sicuramente in un grande gruppo. E poi, insomma, penso che tanti gruppi sono diventati grandi anche solo per il proprio lavoro. L'altro tema forte è quello che riguarda i mercati esteri, la Cina in particolare. Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato di P-Quadro, racconta la scelta di un marchio giovane, che è stata quella di andare da subito ad aprire negozi in Cina. Sì, noi abbiamo aperto il primo negozio 4 anni fa. Abbiamo deciso di farlo da soli, perché sappiamo che per promuovere una marca c'è bisogno di molto tempo. Quindi alcune volte se ci si appoggia a un distributore c'è un disallineamento degli interessi. Quindi siamo andati da soli, abbiamo iniziato ad aprire Hong Kong e poi abbiamo aperto in Cina. Quando si legge Cina bisogna innanzitutto distinguere la Cina mainland dalla grande Cina, perché sono mercati completamente diversi. Cioè Hong Kong credo che sia uno dei mercati più remunerativi in assoluto al mondo e la Cina è una grandissima promessa. Bisogna anche distinguere tra quel gruppo di marchi storici, quei 10, 15, 20 marchi universalmente noti, quindi stranoti anche alle elite che sono abituate a viaggiare, che ritengo funzionino abbastanza bene anche in Cina, anzi senz'altro funzionano bene, e tutti gli altri che, per quella che è la mia esperienza, faticano. Se dovessi dirvi in questo momento quanto questo mercato... Una scelta un po' diversa, quella fatta per andare in Cina, da Fratelli Rossetti. Diego Rossetti, presidente dell'azienda. Diciamo, medi, non universalmente. Abbiamo deciso che anziché essere in una brutta posizione nelle due città, diciamo Pechino e Shanghai, era meglio essere nella posizione migliore magari in città secondarie, che poi abbiamo visto sono città di 10.000 abitanti, 8.000 abitanti. E quindi cominciare a costruire lì quella consapevolezza nei confronti del consumatore, che è un grande investimento, perché il consumatore cinese adesso è ancora affascinato dai cosiddetti brand del lusso, mentre invece per arrivare a un prodotto come il nostro serve una consapevolezza un pochino più sofisticata della qualità. Negli interventi più volte si è toccato il tema del valore del prodotto italiano, della sua qualità e unicità. E proprio di questo parla l'ultima testimonianza che vi vogliamo proporre in questa puntata speciale di Voci di Impresa. Ancora Brunello Cucinelli. Io credo che il Made in Italy abbia un grandissimo futuro, almeno per me, se ben identificato in un prodotto di grande artigianalità, di grande qualità, di grande manualità, di grande modernità e anche distribuito con molta parsimonia. Questo perché io sono abbastanza convinto che un prodotto, anche se speciale, troppo distribuito, perda la sua atmosfera. Io ho sempre pensato che un essere umano voglia comprare qualcosa quasi fatto su misura per lui, e questo non dipende esclusivamente se uno ha mezzi. Quindi io vorrei avere qualcosa quasi esclusivamente per me. Più io penso anche che c'è un fattore nuovo, no? Dall'antica Grecia a mio padre lavorava, faceva l'operaio, non conosceva niente dei profitti del proprio datore di lavoro. Ma adesso, come facciamo noi a convincere un ragazzo 23enne che conosce tutto a venire il giorno dopo a lavorare nelle nostre imprese, prendendo 1.000 euro al mese e immaginando che lui si possa sentire soddisfatto? Questo lo dico perché sono abbastanza convinto che non avremo problemi come Made in Italy trovare coloro che compreranno questi prodotti. Il problema potrebbe essere quali saranno quegli esseri umani, quelle mani sapienti che verranno a lavorare nelle nostre imprese. Ecco lì dove io credo che noi dobbiamo tornare a ridare dignità morale ed economica al lavoro, no? Tanto è inutile che ci nascondiamo: se una ragazza ha 23 anni va in discoteca, sta vicino al ragazzetto giusto, si vergogna a dire che fa la sarta. Quindi dobbiamo in qualche maniera recuperarlo, perché altrimenti perdiamo quelle mani sapienti e perdiamo quella unicità. Sul sito del Sole 24 Ore trovate la cronaca del convegno e le video interviste a Frida Giannini, Creative Director di Gucci, e a Francesco Trapani, amministratore delegato di Bulgari. Da domani, lunedì 5 luglio, gli atti del convegno saranno online all'indirizzo www.formazione.ilsole24ore.com, nella pagina dedicata a Luxury 2011. Le storie di alcune delle aziende che sono intervenute saranno argomento di nuove puntate di Voci di Impresa a partire dalla prossima settimana. Avete ascoltato Voci di Impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.